Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:08, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero. Oggi dovrei miagolare per la verità, però insomma spero di non farlo a caso, cioè nel senso che non mi venga, sapete quei tic che magari uno mai non si accorge di avere, no? Però non credo di avere questo, ovvero quello di miagolare ogni tanto. Perché l'argomento di oggi riguarda proprio gli amici a quattro zampe, li chiamerei così, anche se quando si dice così si pensa immediatamente ai cani. Noi oggi parleremo degli animali in generale anche, però ci concentreremo sui gatti. Gatti che, ahimè, con i quali io ho un rapporto un po' particolare, non li amo in modo così preciso, ecco, io i gatti sì, li vedo, però non comprerei un gatto, ecco, io personalmente, però ho scoperto che intorno a me c'è tanta gente che farebbe esattamente la stessa cosa. Ma al contrario, il gatto è sempre stato un animale molto interessante per tantissime ragioni, davvero, perché sa ammaliare, perché è indipendente, insomma, ha tante caratteristiche che piacciono, oppure che spaventano, magari è il motivo per cui a me non piacciono i gatti, comunque sia. Abbiamo scoperto che ci sono invece tante persone che amano i gatti da tanti punti di vista, anche per quello che sanno comunicare e che sanno dare. Quindi oggi volevo parlare di questo, degli animali in generale, ma anche dei gatti in particolare. Volevo sentirvi sicuramente con le vostre domande, ne avrete tante, ma avremo degli ospiti che potranno sicuramente dire la loro e rispondere alle vostre curiosità. Voglio capire che rapporto avete con i gatti in particolare o con gli animali in generale. Insomma, fatevi sentire come sempre via Facebook nella pagina del Riposo del Guerriero, oppure con gli SMS al 349-238-6666. Anche oggi si gioca con il nostro Modigliani in 24 minuti, che bisogna portarvi a casa il catalogo della mostra Modigliani e gli artisti maledetti a Milano, a Palazzo Reale, e anche biglietti d'ingresso, ammesso che riusciate ad associare una dei titoli delle tele di Modigliani a una canzone, questa in particolare. Maledetto te, ma se ci sei sento il cuore esplodere, se tu ci sei nessun dubbio rimane, e l'emozione è un'onda che va su, dove il mondo non c'è più, angeli nel blu. Ecco, ragazzi, questa è la canzone di Laura Pausini, non so se la conoscete, si intitola Angeli nel blu, e in questa canzone è nascosto il titolo di quest'opera di Modigliani. Dovete rispondere più tardi intorno alle 11:40 e prenotarvi adesso il numero 800 24 00 24. Bene, entriamo nel vivo della puntata, come sempre partendo con una canzone. Mi hanno fatto scoprire una versione della Gatta di Daniele Silvestri, devo dire molto interessante, anche molto intelligente. Si intitola La Chatta perché Daniele Silvestri ricorda quando scriveva in una vecchia chat che oggi non c'è più. Ho un profilo bellissimo, bellissimo in coppa Facebook, ma io ripenso alla chat sul sito di Macchia Nera, in disuso e ormai vecchia, così come il terminale, la cazzo di password che adesso non trovo più. Devo dire, geniale Daniele Silvestri, questa versione della Gatta, insomma, questa chat che non c'è più. In effetti, una volta le chat erano legate a dei siti, addirittura anche sul mio sito c'era una chat che funzionava molto, era stata citata tra le prime 10 chat in Italia. Poi però, insomma, poi sono arrivate quelle globali, si è globalizzato tutto, quindi si è perso anche questo. E tra poco ho vinto un Rocco al nostro ospite, sicuramente era solo un messaggio, volevo leggervi, curioso, che non riguarda gli animali, assolutamente no, però riguarda Barbara Alberti, perché scrivono, visto che siamo proprio in tema in questi giorni, c'è un'ascoltatrice, Tiziana, che la propone come Presidente della Repubblica Italiana, quindi si potrebbe mettere fra la lista delle persone votabili dai cittadini, anche se ormai penso che sia tardi, però insomma era tanto per citare una cosa che mi ha divertito. Il riposo del guerriero. L'uomo è solo un animale che danza al suono dello zufolo delle idee, scrivono, la rivoluzione di Dio della natura dell'uomo, gatta ribelle dissidente. Poi un altro messaggio dicevo, due gattoni di razza europea, li adoro, la cosa buffa è che il cognome faccio della cagnoletta, vabbè ci sta bene, così li abbiamo tutti. Allora, ciao Ermanno Giudici, buona domenica. Ciao, buona domenica a te. Che se la ridacchiava mentre ascoltava la canzone di Silvestri. È vero. Allora, Ermanno Giudici è presidente della sezione EMPA di Milano, EMPA è l'ente nazionale protezione animali, una onlus. Innanzitutto, vabbè, di cosa vi occupate? Gli animali ovviamente, questo è ovvio. Che cosa fate in particolare? Spieghiamolo. Ma diciamo che ci occupiamo un po' di tutto quello che è il mondo animale, quindi dalla divulgazione al soccorso, alla cura con una clinica veterinaria, all'assistenza, insomma facciamo una pluralità di attività nel tentativo di diffondere la cultura del rispetto nei confronti degli animali che ancora purtroppo un po' manca e per fare un aiuto concreto, dare un aiuto concreto, quindi appunto con la nostra attività di pronto soccorso andiamo a recuperare animali che sono in stato di difficoltà, malati, feriti, investiti, incastrati da qualche parte, e devo dire che i gatti poi in questo hanno una predilezione nel mettersi in situazioni anomale in posti strani, per cui sono... perché sono indipendenti, non ci penso. Sì, sono indipendenti, ma secondo me sono anche molto molto curiosi, per cui la curiosità vero, riporta... allora anche il detto, no? Sì, alcune volte li porta in strade che hanno un ingresso ma non un'uscita, e questo vabbè, quello succede anche con gli umani che usano i GPS non aggiornati, che vanno a finire in strade che non finiscono da nessuna parte, finiscono in un fiume, per cui è successo anche recentemente, quindi voglio dire, mica è colpa loro, non hanno neanche il GPS. No, assolutamente, diciamo che poi molte volte diventa complesso riuscire a fargli ritrovare la libertà perché si mettono veramente in situazioni molto particolari, insomma. Hai degli animali? Ho degli animali, sì, ho un gatto, sì? A tre zampe. Come si chiama? Trippi. Trippi sia perché ha tre zampe. Ma anche perché Trippi perché è un po' grassina. Adesso poi magari ci racconterai la sua storia, perché l'avrà sicuramente avendo tre zampe. Sì. E il cane? Avrai anche un cane? No, non ce l'ho perché con la vita che faccio purtroppo il cane ha delle necessità completamente diverse. Ha delle necessità diverse, quindi prima di prendere un cane bisogna pensarci molto bene. Bisogna dirla tante volte questa frase, perché purtroppo non entra mai nella testa abbastanza. No, di purtroppo tanti. Sì, perché in effetti il concetto è che noi pensiamo che gli animali siano animali da compagnia, ma che il rapporto sia univoco, quindi loro devono fare compagnia a noi, ma noi non dobbiamo assolvere i loro bisogni. È una grossa stupidaggine. Il rapporto deve essere assolutamente bionivoco, e prima di prendersi un cane bisogna chiedersi se sono avrò il tempo sarò disposto a quanto mi costa il cane e che sacrifici mi imporrà. Tanti. Dopodiché, se questa cosa funziona, sì, il bilancio è positivo per entrambi, è una scelta assolutamente bellissima e vincente, perché un cane, un uomo e un cane hanno un rapporto assolutamente particolare. È altrettanto vincente la scelta di non scegliere il cane, appunto perché non si avrebbe il tempo di accudirlo. È una scelta intelligente. Sì, anche perché vincente. Devo dire che noi ci occupiamo poi spesso di troppi cani che sono lasciati a casa per l'intera giornata, che vivono in condizioni sbagliate, che sono tenuti a catena, che fanno veramente una vita assurda, per cui prima di prendere un cane bisogna pensarci. I cani non sono oggetti, gli animali non sono oggetti, non si comprano per come se fossero un iPhone o un'altra apparecchiatura di quel genere, ma sono creature vive che hanno dei bisogni e che quindi vanno visti inizialmente, perché poi molte volte si prende l'animale per il bambino dopo una settimana si stufa. C'è sempre il Tamagotchi per questo, no? La soluzione è fantastica, oggi veramente può essere molto meglio proprio, guardare su un tablet dei bei documentari. Ecco, poi vedremo quali sono le problematiche, cosa avete incontrato, cosa incontrate, quali sono le risposte che potete dare e cosa possono fare anche i cittadini di fronte agli animali che trovano in strada o in situazioni particolari o che non possono più tenere per qualche ragione, no? Spiegheremo questo, ma poi se avete delle domande mi raccomando chiedete pure. 349-238-6666. Marina Alberghini, buona domenica. Grazie, altrettanto a voi. Allora, Marina Alberghini ha scritto molti libri, fra l'altro scrittrice, traduttrice, ma anche fondatrice dell'Accademia dei Gatti Magici. Ecco, e io appena ho letto fondatrice Accademia Gatti Magici il pelo mi si è rizzato, nel senso che dico, ma cos'è l'Accademia dei Gatti Magici? Dunque, dell'Accademia, intanto veramente il fondatore fu mio marito, sì. Perché io già scrivevo i libri, lui vide questa creatura eccezionale, che poi tra l'altro lui aveva sempre amato i gatti, ci eravamo addirittura conosciuti attraverso un gatto, quindi e quindi gli venne l'idea, andando in pensione, di creare questa Accademia, che è l'unica che esiste al mondo, perché studia e celebra il gatto nella cultura. Quindi ci sono moltissime associazioni di tipo protezionista, ma lui diceva anche il protezionismo nasce dalla conoscenza. Quindi se si sa che Leonardo da Vinci ebbe il coraggio di disegnare e fare un quadro con la Madonna del Gatto, cioè mettendo il gatto tra le braccia del bambino Gesù in un momento che era perseguitato, e beh, allora c'è gente che comincia a guardare il gatto in un altro modo. E io sono la presidente dell'Accademia dei Gatti Magici. Tra l'altro hai appena pubblicato un libro molto interessante, si intitola Gatti di Potere, dove sostieni nella tua introduzione che forse Machiavelli, piuttosto che Andreotti, avrebbero potuto avere dei gatti, visto le frasi che in qualche modo li hanno segnati. Machiavelli, faccio un esempio, per il fine giustifica i mezzi. Perché com'è il gatto? Perché il gatto è un animale molto, molto furbo, e nello stesso tempo insegna molte cose. Per esempio insegna a accontentarsi di quello che si ha, perché un gatto è felice anche di stare sdraiato su una foglia a prendere il sole, però di puntare sempre al meglio, e questo è già un bellissimo insegnamento. Io nel fare questo libro mi sono accorta che grandissimi uomini di potere, e dietro di loro c'era sempre l'ombra di un gatto. Ci fai qualche esempio? Sì, per esempio Churchill, che era un uomo che faceva paura a tutti, nessuno poteva contraddirlo, di fronte al proprio gatto Nelson, era addirittura appiattito. Intanto Nelson aveva l'onore di assistere a tutti i suoi incontri del gabinetto inglese. E poi, per esempio, c'è un aneddoto molto divertente che ho trovato nelle memorie della segretaria di Churchill. Perché Churchill allora aveva un altro gatto, lui amava molto i gatti russi, i cosiddetti gatti ginger, e questo gatto si chiamava Cat, cioè gatto. Allora, dunque Churchill stava in una casa a due piani, quindi nell'ultimo piano dormiva, poi scendeva giù, c'era lo studio. Allora scende giù e trova questo gatto, Cat, che si era messo sulla porta e gli impediva di entrare. E allora lui disse: Cat, per favore, spostati. E Cat rimase lì, perché i gatti sono così, non si può dare nessun ordine. E allora lui ripete: Cat, per favore, spostati. Niente, Cat non si spostò. Allora lui aveva in mano dei fogli e gli diede un picchio, ma leggero, tanto per farlo spostare. Ma Cat si alzò, andò in giardino e non tornò più. E allora andò in paranoia Churchill, era disperato: io l'ho fisso, se ho fisso, come si può fare, in qualche modo, tornerà, io spero che torni. Dopo qualche giorno ordinò alla segretaria di preparare un cartello sul quale c'era scritto: torna Cat, tutto è perdonato. Oh, è bello che il giorno dopo il gatto tornò. E quindi hai imparato anche a leggere a questo punto, la furia di assistere agli incontri. I gatti hanno molte, molte proprietà. Grandissime. Senti, è vero che il gatto sa farsi, fa parte del mondo degli uomini, facendosi mantenere senza offrire nulla in cambio se non se stesso? Beh, questo lo diceva Barok. Barok era un altro degli artisti cosiddetti maledetti, come Céline, che però di fronte al proprio gatto, come anche Céline, erano assolutamente appiattiti. E Barok lasciò scritto nel testamento che aveva amato molte donne, aveva avuto una vita avventurosa, eccetera, però la vera gioia pura e assoluta era venuta dalle sue quattro gatte. Infatti lasciò un lascito anche per i gatti. E quando la gente, appunto, anche proprio nel suo libro Il gatto in noi, dice: il gatto offre se stesso, ed è un dono enorme, perché prima di tutto è un dono di bellezza, è un dono di saggezza, è un dono di contemplazione. C'è un detto tibetano che dice: la contemplazione della natura del proprio gatto porta all'illuminazione. Non è uno scherzo, intanto insomma, per molti scrittori di fantascienza, come per esempio Frederick Brown, il gatto forse è un essere terrestre, non è proprio un animale, insomma è un po' come noi, non siamo del tutto animali. Insomma, ecco, legato, anche il gatto è così. Ecco, infatti il gatto è molto legato alla magia. Volevo sentire Ermanno Giudici che sta ascoltando con attenzione, che però sì, annuisce, tu lo trovi così magnetico? Come? Sì, assolutamente, è un animale molto molto particolare, che ha un rapporto con noi anche molto particolare, in effetti. Diciamo che gli sprovveduti pensano che in qualche modo siamo noi a trarre benefici dal gatto. Il gatto ci dà sicuramente dei benefici, ma è un animale che ha il modo di ottenere quello che vuole. Io dico sempre che sono un po' il cameriere del mio gatto, perché lui sceglie cosa fare, lui sceglie quando vuol venire, lui sceglie quando vuole avere le coccole. È un comportamento diametralmente opposto a quello di un cane, è proprio completamente diverso. Il cane vive in adorazione del proprietario, del suo compagno, e il gatto vive secondo me un pochino in adorazione di se stesso, e poi comunque ha questo bel rapporto con gli umani, ma è un animale davvero fantastico. Ecco, non è sempre così. Un messaggio dice: sono Stefania, amo tanto i gatti, ne ho avuta una che quando stavo male non si muoveva dal mio letto, e ora ne ho un altro raccolto in Trentino che mi segue come un'ombra, e quindi insomma il rapporto forse è così quasi dipendente, no? Dal chiamiamo dal padrone, la padrona in questo caso. Marina, com'è il questo gatto? È un rapporto di amore, certo. Non c'entra niente, non c'entra la dipendenza, sì. Perché allora se uno ama il proprio figlio, cosa è dipendente, no, dal chiaro, figlio o dalla moglie? No, l'amore è questo, e indubbiamente questi gatti che sono stati citati sono stati amati nel modo giusto, perché il modo giusto di amare un gatto è lasciarlo libero, non dargli ordini come si farebbe a un essere inferiore. Beh, forse come le persone, no? È molto giusto di amare e lasciar libero, rispettandoli. Io per esempio quando stavo, adesso sto in montagna e c'è meno gente qui intorno, ma quando stavo a Roma che c'erano parecchi palazzi intorno, condominio, i miei gatti avevano amici dappertutto e delle volte si assentavano. Mi ricordo una volta in una riunione del consorzio della strada, arrivò un ingegnere che abitava un poco più giù, vede il mio gatto grigio e disse: oh, Nuvola Grigia, che sta da voi? Dico, ma no, come Nuvola Grigia? Questo si chiama Tarì. Dice, ma no, il nostro gatto si chiama Nuvola Grigia. Venne fuori che lui andava a pranzo dall'ingegnere, andava a dormire dal notaio che stava lì accanto e poi stava con noi. Perché è un amico, cioè il gatto è un amico, deve essere visto come un essere umano amico, e allora ti può dare veramente tantissimo. Marina, tu abiti in questa villa, si chiama Villa Gatti Magici, sì, con 2 cani e 13 gatti ancora. Il sì, numero è scelto sì, a caso oppure c'è una scelta precisa nel numero 13? No. Sempre capitato il 13, probabilmente sì, forse sarà anche cabalistico, però non c'entra il caso. C'entra che a volte ci sono dei casi tragici per cui io mi commuovo e adotto. E poi mi piace anche adottare gatti, per esempio ho 2 gatte torinesi, c'ho una gatta napoletana, c'ho una gatta romana, ho 2 gatte pistoiesi e una gatta fiorentina, e quindi sono fatto l'unità d'Italia. Erano tutti casi naturalmente tragici, certo, che io salvavo. Non manca un gatto milanese, però glielo possiamo dare noi. Questa è un'ottima idea. Infatti, va bene, ci sono dei ottimi volontari, c'è Mondo Gatto a Milano, c'è la Milvia Codazzi che è bravissima. Sì, ci farò un pensierino. Grazie Marina Alberghini, grazie davvero. Vi ricordo il libro si intitola Gatti di Potere, è l'ultimo, è in ordine cronologico perché ne ha scritti tanti. Grazie ancora e buona domenica con tutti i suoi gatti, che sono proprio tanti. Buona domenica. Il riposo del guerriero. Io ho vissuto metà della mia vita con i gatti, sempre trovatelli, razza europea, li adoro, sono Poldo, Matimi, Europa, il messaggio più lungo. Se ci fosse un cane in ogni casa, si venderebbero molti meno antidepressivi. Dobbiamo imparare a vivere dai gatti e amare dai cani. Poi ci sono anche le poesie, dopo magari la leggerò sicuramente. Preciso, il nostro gatto vive tassativamente fuori casa. Che ridere. E stanno mandando anche molte immagini dei vostri gatti su Facebook, quindi se andate sulla pagina li vedete. E, Ermanno, io vorrei chiederti una cosa, poi ci andate ad ascoltare questo pezzetto di un film molto famoso, ovviamente, che riguarda i gatti. Quando si pensa ai gatti si pensa al grande film Disney, gli Aristogatti. Non ho parenti in vita. E naturalmente voglio che i miei adorati gatti siano sempre trattati bene. E certamente nessuno lo può far meglio del mio fedele maggiordomo Edgar. Edgar? Ma direi che vuol dire che vuoi lasciare tutto il tuo cospicuo patrimonio a Edgar? Tutto ciò che possiedi, azioni, obbligazioni, questa casa, le tue ville in campagna, i tesori d'arte, i gioielli. No, no, George, no a Edgar, ai miei gatti. Ai tuoi gatti? Ai gatti? Sì, George, desidero semplicemente che i gatti ereditino per primi. Poi, alla fine dei loro giorni, l'intera proprietà passerà a Edgar. I gatti ereditano per primi e io vengo dopo i gatti. Io dopo. No, non è giusto. Allora succede che si lasci tutto ai propri animali, anche ai propri gatti? Sì, diciamo che succede che si lasci tutto a qualche organizzazione. Perché poi si legge sui giornali, non si capisce più, no. E allora è meglio chiarire. I no? gatti in effetti non hanno una capacità di ereditare, certo, da un punto di vista legale. Quindi cosa succede? Può essere lasciato a una persona, come in questo caso l'eventuale maggiordomo, o forse con maggiore garanzia a un'associazione che possa poi occuparsi degli animali e quindi possa seguirli. È una cosa che succede non spessissimo, ma per fortuna diciamo che noi riusciamo a operare, a fare molte cose anche grazie a questo tipo di contribuzioni che la gente ci lascia nel momento del decesso. Quindi sicuramente ben venga un pensiero agli animali. Molte persone lasciano, tra l'altro suddividono in modo molto intelligente il loro patrimonio, suddividendolo equamente fra organizzazioni che si occupano di problemi sociali, di bambini, di anziani, di animali, perché poi il concetto è che tutte le categorie bisognose andrebbero in qualche modo aiutate, per cui non ci deve essere una sorta di concorrenza, ma si deve creare una sinergia. Io credo che chiunque faccia volontariato per gli animali provi empatia e trovi simpatia con chi fa volontariato per gli anziani, per i bambini, perché il mondo del volontariato e il mondo del comunque dell'aiuto non prevede categorie, insomma se le fanno più le persone che magari parlano di volontariato e di bisogni stando in poltrona che non quelle che effettivamente lavorano per cause sociali. Siete sempre a ricerca di volontari? Ce n'è sempre bisogno? Oppure no, c'è attenzione verso questa problematica per cui ne avete? No, siamo sempre alla ricerca di volontari e devo dirti che più passa il tempo e più questa cosa è complessa. È complessa perché la crisi comunque incide, perché le persone magari cercano di arrotondare, fanno altri lavori, hanno meno tempo per questo tipo di attività e molti altri hanno forse un po' perso lo spirito del sociale, per cui la gente tende più a chiudersi nel suo privato che non a cercare un aiuto, per cui noi, ma come tutte le organizzazioni di volontariato, siamo assolutamente in carenza di persone. Noi potrei stimartelo intorno almeno a un buon terzo, ma so che anche le croci, chi fa assistenza, ha esattamente le stesse difficoltà. Poi magari capiremo anche con i nostri ascoltatori come è possibile fare che cosa, insomma, anche che competenze, certo, se ci vogliono, quali, eccetera. Stefano Zuffi, storico dell'arte, buona domenica. Buongiorno a tutti. Allora, i felini hanno avuto un posto importante in tante rappresentazioni del iconografico, o mi sbaglio? Dunque, hanno avuto il posto tipico dei gatti, ecco, cioè è un posto di privilegio, ma un posto di osservazione più che di primo piano. I cani anche nell'arte sono più espansivi, sono più vistosi, sono più presenti. I gatti sono, com'è nella loro natura, più cauti e quindi sono spesso in una posizione magari un po' defilata, però con un po' di occhio si trova. Ecco, io non ce l'ho perché se qualcuno dovesse chiedermi visto un quadro famoso, insomma, con i gatti, no, invece con i cani sì, mi vengono in mente molti quadri dove si tiene in braccio un cane, ma i gatti non li ho mai visti. Dov'è che li possiamo vedere invece con quest'occhio attento che a quanto pare a me manca? Soprattutto nelle rappresentazioni che si svolgono all'interno di una casa, quindi per esempio in molte annunciazioni nella stanza di Maria, sì, in un angolino magari vicino al fuoco o in un posto molto confortevole c'è un gatto, perché il gatto appunto nell'arte occupa questo posto domestico, è l'animale intorno al quale si accentra il concetto di abitazione, di casa, di luogo chiuso, spesso di luogo femminile, quindi appunto l'annunciazione è la camera di una ragazza, di una donna, oppure l'altra alternativa è guardare dove c'è qualcosa da mangiare, quindi nelle ultime cene, nelle nozze di Cana, nella cena di Emmaus, oppure nelle rappresentazioni delle cucine, ecco che un gatto è sempre pronto a gustare qualche bocconcino speciale, oppure anche a rubacchiare qualche pesciolino o comunque qualcosa che si trovi in cucina. Ecco Zuffi, c'è qualche autore che amava in modo particolare i gatti? Quindi, sì, certamente sì, ne citerei due. Sì. Uno è stato Leonardo da Vinci. Leonardo adorava i gatti perché ammirava moltissimo la loro flessuosità, le loro movenze, sempre eleganti ma anche straordinariamente agili, e quindi abbiamo molte rappresentazioni, non in pittura ma in disegni, di Leonardo con dei gatti osservati con una partecipazione, con un affetto del tutto particolare. E poi in ambito impressionista c'è stato Renoir. Ecco, Renoir è un artista che appena ha potuto ha rappresentato questi gatti che danno proprio il senso della serenità, della calma, della pace, del sapersi godere la vita. Poi naturalmente molti altri artisti. Tuttavia vorrei dire che il gatto è stato molto più celebrato dai poeti che non dai pittori, cioè ci sono tante belle poesie, tante belle citazioni, aforismi, frasi dedicate ai gatti, penso alle poesie di Baudelaire per esempio, molto più di quanto non ci sia nell'arte. Ci sono stati anche degli artisti che hanno avuto quasi paura dei gatti, li hanno ritenuti degli animali diabolici. Per esempio Goya aveva veramente il terrore dei gatti, e quando rappresenta dei gatti ne fa quasi una rappresentazione del maligno, del diavolo, cosa che al cane non accade mai. Ecco, e c'è qualche quadro invece dove il gatto è protagonista al posto che essere invece parte, diciamo, del dipinto? Dunque dovremmo cominciare prima di tutto a parlare dell'arte egiziana. Sì. Nell'arte egiziana il gatto era un dio. C'è una dea particolarmente invocata, particolarmente amata, si chiamava la dea Bastet, la cui rappresentazione è sotto forma di gatta, ecco, e quindi lì nell'arte egiziana c'è una presenza dei gatti addirittura divinizzati. Nella storia dell'arte c'è, nell'arte occidentale, nell'arte nostra, c'è un caso molto celebre che è un'annunciazione di Lorenzo Lotto, che è, diciamo, proprio caratterizzata da un gatto che attraversa la scena con la schiena inarcata, la coda gonfia, gli occhi spiritati, ed è veramente il vero protagonista di questo quadro molto bello, insomma è un bel dipinto del Rinascimento. Grazie, adesso presterò molta più attenzione, giuro, prometto. Buona caccia. Grazie a Stefano Zuffi, storico dell'arte, ci risentiremo presto, buona domenica anche. A proposito di poeti, Ermanno, io abbiamo scoperto di avere un poeta di ascoltatori, si chiama Antonino Gatto, è il poeta elettricista che crede di poter cambiare il mondo. Io auguro, chiaramente, ci mettiamoci mi tutti insieme. Un bel impegno. Assolutamente sì, ma meno male. E dice: quatto quatto, matto matto, sono poeta e sono gatto, sotto al pelo un grande cuore, tengo i baffi ma d'autore. Non vi è nulla che mi sfugge, con le rime detto legge. Sono presente nella rete e di Twitter sono il pepe. Sono un gatto per tutti e il segreto sai qual è? Di fortuna ne avrei molta se mi tieni accanto a te. Ecco, questo è insomma la poesia che è così quasi rodariana, però funziona. E qual è il tuo rapporto con Trippi? Un bellissimo rapporto, nel senso che comunque è una gatta dolcissima quando lei ha voglia di stare con noi e di avere... Perché a volte non ce l'ha proprio quella voglia, zero. No, lo vedi che proprio lei preferisce magari stare al sole, stare su un tappeto, e poi improvvisamente decide invece che deve occuparsi di te, quindi ti sale addosso, ti lava, ti fa le fusa, diventa una specie di colla. È proprio però con una volontarietà, proprio è lei che sceglie, è lei che giustamente, è lei anche perché è lasciata libera, per cui può fare esattamente quello che le piace, se vuole venire con noi siamo contenti, se preferisce riposare, divertirsi. Sì, si diceva prima il rispetto, no, della sì, sua assolutamente, volontà. Ecco, assolutamente. Tu tenti di tradurre questi comportamenti in qualcosa oppure non li traduci per niente? Cioè sono comportamenti e basta? Oppure cerchi di capire lo stato d'animo, ecco. Direi che sì, puoi vedere lo stato di benessere dell'animale, nel senso che riesci a capire anche da come il gatto riposa, da come si mette su un divano, perché poi in effetti il gatto come felino è sempre attento, è un predatore, ha una visione molto particolare, comportamenti particolari. Quando il gatto vedi che è completamente abbandonato, che anche quando c'è un rumore neanche muove una vibrissa, un orecchio, vuol dire che proprio è in uno stato di estasi e di godimento particolare che ti intenerisce, proprio perché vuol dire che ha ottenuto il suo massimo piacere. Tra poco cercheremo di capire proprio quali sono i significati dei comportamenti con Laura Borromeo dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Arrivano molti appelli e domande con gli SMS su Facebook. Cercheremo allora di, perché siamo partiti un po' tardi stamattina, allora cercheremo di avere anche Grazioli dopo al telefono, che è il veterinario, per rispondere alle domande che avete. Laura Borromeo, intanto buona domenica. Buona domenica a voi. Studioso del comportamento felino, allora cerchiamo di capire i comportamenti dei gatti, quelli che dobbiamo cercare di interpretare. Laura, sì. Da dove partiamo? Partiamo da uno dei comportamenti classici, per esempio il farsi le unghie in giro per casa. Sì. Le persone molto spesso non si rendono conto che i gatti hanno delle esigenze specifiche. E molte volte si sente la frase non dobbiamo trattare gli animali come delle persone. Di fatto nessuno dà la spiegazione di questa frase. Il trattare un animale come una persona significa non capire le sue esigenze. Invece le esigenze di un gatto, per esempio, sono quelle di farsi le unghie. E questo in natura il gatto lo fa perché vuole lasciare dei messaggi visivi, dei messaggi olfattivi per gli altri animali, per gli altri gatti, e vuole fare stretching, vuole allenarsi per la caccia, perché ovviamente con le unghie riesce a percepire la forza di cui avrà bisogno per trattenere un animale, e come ultima cosa deve sfaldare la parte esterna delle unghie. Se noi sappiamo tutte queste cose, ci rendiamo perfettamente conto che dobbiamo attrezzare la nostra casa affinché il gatto possa mettere in atto questa sua esigenza, questo suo comportamento naturale. E ovviamente non ha senso essere tolleranti e permettergli di lasciare questi segni sui nostri divani e sui nostri armadi, ma bisogna provvedere a fornirgli un idoneo attrezzo che si chiama tiragraffi, in modo che lui possa mettere in atto questa sua necessità. Ecco, quando ci troviamo di fronte a un gatto che non conosciamo, un gatto di altri, no? Lo sentiamo, non so, soffiare, hanno quei comportamenti, potrebbero avere i gatti, che spaventano un po' l'altra persona, no? Perché pare che ti voglia saltare addosso da un momento all'altro. È proprio così o invece non è affatto così? Allora, il gatto si sta esprimendo, sta dicendo stammi lontano, perché evidentemente la persona che non legge il linguaggio corporeo del gatto, che lo dice ben prima di soffiare, di fermarsi, la persona non rispetta quella che si chiama distanza di sicurezza, continua ad avvicinarsi e il gatto col suo linguaggio, noi diremmo se fosse una persona non si avvicini, ho paura di lei, se invece nella fattispecie è il gatto lo dice soffiando, ci sta dicendo stammi lontano. Se uno stesse fermo o addirittura si spostasse un attimo indietro al di là della distanza di sicurezza, il gatto si tranquillizzerebbe. Il punto è che la maggior parte delle persone non sanno leggere questo linguaggio, che è anche molto sottile, al di là che anche un cane ringhia, per esempio. Dal cane ci si aspetta che ci si debba fermare se lo sentiamo ringhiare, e nessuno pensa che possa essere una cosa anomala. Invece da parte del gatto questo comportamento è visto come una cosa un po' così, molto molto più intimorente, però basterebbe appunto rispettare le distanze, si sta più lontano e il gatto si tranquillizzerebbe. Ecco, è una questione di lettura, è sempre una questione di comunicazione. Beh, certo, anche di conoscenza, come tutto. Laura Borromeo, ci sono altri comportamenti che dobbiamo imparare a leggere dai nostri gatti o anche da quelli degli altri? Sì, beh, di sicuro sicuro, per esempio i segnali di stress, se un gatto è stressato oppure se è annoiato, i segnali alcune volte sembrano quasi dei dispetti, vengono interpretati come dei dispetti dagli umani, per esempio un gatto che tira giù tutti gli oggetti dai ripiani di casa sta facendo dei rispetti, invece semplicemente è annoiato, non ha niente da fare, perché si pensa che il gatto purtroppo sia un animale, che sia un soprammobile invece di essere un essere vivente, e non ci si rende conto che o arricchiamo la casa con tutta una serie di attività che lasciamo da fare il gatto quando noi non ci siamo, oppure il gatto si ingegna e si trova lui delle cose da fare, tipo trovare la carta igienica piuttosto che fare a pezzetti i giornali, cioè tante cose che poi noi pensiamo siano dei dispetti, perciò ci arrabbiamo senza invece renderci conto delle necessità dell'animale. Ecco, questo indipendentemente che sia un cucciolo o meno? Assolutamente sì, i gatti sono veramente, hanno una carica energetica incredibile, perché per sopravvivere in natura devono cacciare in continuazione, non è come il cane che caccia una preda grossa e poi gli dura per giorni, il gatto deve catturare un piccolo uccellino, un topolino almeno per 15 volte in una giornata, il che vuol dire che fa almeno 100 attacchi in una giornata, vuol dire che il livello energetico di un gatto è altissimo. Quindi dobbiamo comunque dargli questa, tra virgolette, questa possibilità, cioè dobbiamo rispettare questa esigenza di energia che poi viene sfogata anche ovviamente in un altro modo, però bisogna, certo, lasciare che lo faccia. L'ideale sarebbe riuscire a farli uscire. Sì, appunto. Che chi non li può far uscire perché vive in città deve ovviamente arricchire la casa con tanti giochi, magari del cibo nascosto, insomma ingegnarsi a trovare delle cose da fargli fare, poi quando siamo a casa non pensare solo a noi stessi, ma pensare anche a occupare il nostro gatto. Ecco, in questo senso viene da dire che anche il gatto quindi è impegnativo, in modo diverso dal cane, ma lo è. Assolutamente sì, infatti è un concetto sbagliato quello di dire non mi posso permettere un cane, mi prendo il gatto è altrettanto impegnativo, in più abbiamo una responsabilità in più rispetto ai cani, perché i cani almeno possono essere portati fuori, possono venire a fare le passeggiate con noi il sabato e la domenica, il gatto è un prigioniero, io dico sempre se qualcuno di noi fosse chiuso nella sua casa tutta la sua vita, però senza televisione, senza telefono, senza computer, senza libri, musica e tutto quant'altro, sarebbe una vita grama. Così lo è per i gatti hanno bisogno di fare qualcosa, non possono essere lasciati senza aver nulla da fare. Grazie, grazie Laura Borromeo, buona domenica. Credo. Grazie. Oscar Grazioli, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, per rispondere a una domanda in particolare dice, siate gentili, ditemi se il latte senza lattosio fa male al gatto. Oh, là. Il latte senza lattosio fa male al gatto? No, perché lo chiedono, no, gli ascoltatori disperati. No. Allora, a parte il fatto che sarebbe bene non somministrare latte o comunque al di fuori del periodo di... Ma come? Ma come? Io fin da piccolo mi dicono che devo dare il latte. Vecchio, è un vecchio luogo comune perché sì, in realtà... visto che siamo in periodo di intolleranze, ci sono adesso i pappi, no? Le allergie, eccetera, eccetera, in effetti il latte, l'uovo, questi alimenti sono fra gli imputati maggiori per quanto riguarda le intolleranze alimentari, quindi non sono assolutamente necessari, quindi è bene astenersi magari dal somministrarli, nonostante la vasta letteratura e le vaste esperienze passate. Ecco, esatto, quindi evitiamo, se vedo un gatto per strada non gli devo dare il latte da mangiare. Beh, che è la prima cosa che gli darei io piuttosto della morte per dell'inedia. Sì, beh, certo, a quel punto lì gli darei anche la salsiccia, va bene, anche l'acqua, voglio dire, a quel punto va bene, ecco, sì. Ecco, che cosa dobbiamo curare i nostri gatti, cosa dobbiamo fare insomma per trattarli bene? Ma intanto, da un punto di vista medico, ovvio. Sentivo Laura Borromeo dire appunto che il gatto, il gatto è un animale comunque che sta bene anche da solo, è un animale che, e naturalmente bisogna arricchirgli un pochino la vita, ecco, è chiaro, sì, che se lo stacchiamo da qualsiasi e lo depriviamo sensorialmente però non è un animale, non è come il cane che è un gregario, è un animale che caccia da solo come quasi tutti i felini, e quindi non preoccupiamoci tanto se stiamo via una giornata, perché lui se ne frega altamente di noi, cioè nel senso che se ne sta benissimo, andrà a srotolare la carta igienica probabilmente, ecco. E, come curarlo? Quali cure? Beh, direi dal punto di vista veterinario obbligatorie le vaccinazioni di base, diciamo, e soprattutto direi molta attenzione quando passiamo gli 8-9 anni, dove entriamo comunque nella cosiddetta terza età, ecco, anche per il gatto, perché il tallone d'Achille del gatto è il rene. L'insufficienza renale è sempre in agguato nel gatto anziano, e quindi il controllare una o due volte all'anno basta prelevare due gocce di sangue, proprio due parametri che sono la zootemia e la creatinina, può salvare la vita al gatto. Ecco, questa è una cosa importante. Oscar Grazzoli, la devo salutare perché c'è il GR, la ringrazio intanto, buona domenica. Però volevo invitare gli ascoltatori, se avessero delle domande specifiche da fare, di scrivere un sms su Facebook e poi noi vi scriveremo le risposte sul sito di Radio 24, che è radio24.it. Il riposo del guerriero. 18 minuti, ancora buona domenica, era Stefano Gallarini, il riposo del guerriero fino a mezzogiorno insieme. Vi ricordo alle 11.40 circa giocheremo con Modigliani e la possibilità di portarvi a casa catalogo della mostra e biglietti d'ingresso alla mostra di Milano. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24. Buongiorno, una domanda che abbiamo: perché il nostro gatto sembra sempre essere annoiato? Può essere utile prenderne un secondo per compagnia e giochi? Ermanno Giudici, presidente sezione EMPA di Milano. Ma bisogna vedere se il gatto è effettivamente annoiato o semplicemente ha un comportamento molto felino, perché poi se vediamo anche i felini in natura, esaurito il momento della caccia e a pancia piena, sono animali che passano un lungo tempo a riposare, quindi bisogna capire se questa noia si traduce poi in patologie, in comportamenti anormali, o semplicemente è un gatto che riposa. Un secondo gatto male non fa se il gatto di casa accetta l'introduzione. Non sempre è così facile, va fatta con cautela e con attenzione per non creare una serie di disequilibri, perché poi alla fine introduciamo comunque un competitor in un territorio che è già di proprietà del primo gatto. Quindi bisogna fare attenzione che questo sia un fatto positivo e non diventi invece un motivo di stress. Esatto. Hanno il senso del tempo? Hanno il senso dell'incedere del periodo sonno-veglia, luce-buio, quindi hanno il senso delle giornate. Certo, non hanno un senso non così scandito, ecco, no, certo, non hanno un senso così scandito come il nostro. Diciamo che si regolano su quello che può essere un discorso di luce, un discorso di temperature. Più o meno come facciamo noi, poi, perché abbiamo abbiamo introdotto l'ora, però in realtà. In effetti potremmo anche farne tranquillamente a meno se non avessimo una serie sappiamo di... regolarci. Esatto. Laura Rangoni, buona domenica. Allora, ha scritto un libro fra i tanti, anche Tira fuori la gatta che è in te. Ecco, guarda, allora ti fermo subito, sì, perché in realtà non l'ho scritto io, l'ha scritto la gatta Liz, della quale ecco, io scusami, sono solo l'umile collaboratrice. Ah beh, certo, quindi ti ha suggerito che cosa scrivere, perché certo. Ecco, perché le zampe sulla tastiera penso che avrebbero messo le lettere un po' a caso. Ma ecco, no, soprattutto si rovinava le unghie, lei ci tiene moltissimo. Ho ai suoi capito. Artigli. Allora, tu dici in questo libro lei spiega lei la gatta, intendevo dire, certo, non Liz. Laura, cioè mi stavo dando lei a te. Ti spiega come educare, fare in modo che lei venga educata, la gatta, ma soprattutto come la gatta può educare noi. Ecco, questo è l'aspetto che mi interessava di più, come i gatti possono educarci, Laura. Sì, in effetti noi siamo solo dei miseri umani, loro invece sono la cosa più vicina alla perfezione e quindi Liz si è presa il compito di insegnare, questo è rivolto a un pubblico femminile, ma comunque anche a voi maschietti non fa male, di insegnare come tirare fuori la meravigliosa creatura che è in noi, perché i gatti sono assolutamente perfetti, non fanno mai nulla a caso e soprattutto hanno un senso dell'autostima talmente elevato che sono solo in grado di insegnarci. Ecco, da dove dobbiamo imparare? Da che cosa in particolare? Cosa dovremmo imparare dai gatti secondo te? Soprattutto dai gatti dobbiamo imparare tramite l'osservazione a eliminare tutto ciò che è inutile, quello che voi uomini con un giro di parole chiamate segamentale, cioè esistono delle cose importanti da fare, cose che riguardano la nostra sopravvivenza, tipo ad esempio, non so, gustarsi un salmone selvaggio, come consiglia Liz, e lasciar perdere tutte le sovrastrutture che noi umani invece abbiamo, pensando a quello che è importante per noi, spostando il focus quando ci perdiamo nei nostri problemi. E se un problema non si può risolvere nell'immediato, è inutile pensarci su, conviene sdraiarsi in un prato pieno di margherite e lasciare un po' che la mente trovi la soluzione, perché molto spesso noi siamo dei gomitoli che ci involviamo su noi stessi. Ecco, c'è, hai detto che il gatto è perfetto, no? Certo. Ma c'è una cosa che proprio Laura non è che sopporti tanto, che non ti piace? Dei gatti? Sì. Il fatto che vivono meno di noi. Ma come, hanno 7 vite? Qualcuno dice 9, non ho capito quante alla fine. Sì, però tutto sommato, se tu metti insieme le loro 7 vite, sono purtroppo molto brevi e quindi non raggiungono la nostra, che è una sola. Sovente è una vita che noi sprechiamo in cose inutili, mentre se noi riuscissimo veramente a vivere la nostra unica vita come loro vivono le loro 7, saremmo più saggi. Grazie Laura Rangoni, tira fuori la gatta che è in te. Buona domenica. Buona domenica. Ciao, anche a voi. Ciao Laura. Ermanno, allora, l'EMPA, abbiamo parlato di volontari, innanzitutto dicevi il volontariato deve essere vissuto come un lavoro, perché se è già un secondo lavoro vuol dire che prima o poi si perde anche di motivazioni, di energia. Sì, soprattutto si perde di professionalità, perché poi comunque il fare volontariamente un'attività non vuol dire poterla fare in un modo approssimativo. Noi abbiamo bisogno di persone che lo facciano con professionalità, con la capacità di capire il momento, la tipologia di intervento, l'attenzione che ci vuole nei confronti dell'animale, che abbiano voglia di leggere, di imparare, di essere curiosi. E questo quindi deve essere visto veramente come se fosse una sorta di professione che nel tempo comunque ti arricchisce, cioè non hai i vincoli della professione nel vero senso della parola, però ti porta a conoscere sempre di più, e più conosci e meglio lavori e più sei in grado di adempiere al tuo compito e a quello che vuoi fare. Quindi noi chiediamo un impegno anche minimo, nel senso che comunque basta mezza giornata alla settimana, che può essere fatta mattina, pomeriggio, sera. Noi lavoriamo su 3 turni, siamo aperti dalle 9 alla mezzanotte di tutti i giorni per 365 giorni all'anno, e quindi si può scegliere un turno. C'è un turno festivo al mese e una riunione ogni mese e mezzo di coordinamento per riuscire a capire. Poi ovviamente qualsiasi tempo dato in più è sempre benvenuto, perché siamo sempre in carenza di ossigeno, nel senso che ci manca poi sempre le persone per riuscire a fare tutto nel migliore dei modi. EMPA.it è il sito. EMPAMilano.org è quello proprio di Milano, della sezione legato di Milano, alla città, ecco. Esatto. Poi insomma in generale, ovviamente poi ci sono tutte le altre. Ermanno, un'altra cosa è legata alle aspettative delle persone. Voi potete fare solo quello che potete fare, insomma, bisogna spiegare questo, credo. Purtroppo no? Sì, le persone vorrebbero che esistesse un 118 per animali, ed è una cosa assolutamente necessaria, ed è una cosa che in molti paesi europei ed extraeuropei esiste, funziona e funziona perfettamente. Da noi questa cosa è ancora molto molto agli albori, c'è poca volontà, c'è poco interesse, le amministrazioni pubbliche ci sentono poco, c'è una crisi diffusa per cui anche le amministrazioni pubbliche sono un po' in difficoltà con i contributi, per cui le persone poi quello che non riescono a trovare dal pubblico vengono a cercarlo da noi, che chiamandoci poi ente nazionale la gente pensa che così come magari altri enti nazionali somministrano l'energia o un'attività, sì, noi siamo assimilabili. In realtà noi siamo un'associazione privata che fa quello che può nei limiti dei suoi fondi, nei limiti del personale che ha, delle persone che l'aiutano, dei contributi che riceve, e quindi facciamo quello che possiamo, lo facciamo al meglio di come possiamo farlo, però ovviamente non possiamo sostituirci a quello che dovrebbe essere una struttura molto più coordinata, molto più grande, con comunque un concetto di coordinamento pubblico che consenta alla gente, al cittadino che vede l'animale, di riuscire ad avere un soccorso, così come il cittadino che vede una persona ferita riesce ad avere un soccorso. Ecco, e poi per valorare anche questa tua idea, cioè non idea, ma l'escursione dei fatti, i fatti che hai descritto, e cioè volevo raccontare questo fatto di cronaca che poi si risolverà sicuramente, però ci state dietro un po' di tempo, nel senso che voi non avete nessun tipo di deroga, e anche se la richiesta c'è stata da parte del Comune di Milano, per passare nella ZTL, cioè nella zona traffico libero. limitato, e questa è quella che si chiama area C, e quindi continuate a pagare multe perché dovendo andare a prestare servizio, che è un servizio vero e proprio, e non potete farlo perché pagate la multa ogni volta che andate, e malgrado ci sia qualcuno nel comune vi sta appoggiando cercando di, non si riesce ancora a trovare la quadra di questo permesso. Avete addirittura fatto in modo che i mezzi adesso risultino essere come delle ambulanze equiparate, esatto. Quindi adesso forse si è trovata Non lo so, perché i nostri mezzi circolano nella ZTL da sempre e non hanno mai avuto problemi. È un problema dell'ultimo anno. Improvvisamente il comune ha ristretto l'accesso alle ZTL da parte dei privati, dal mio punto di vista anche giustamente, poi ha lasciato comunque una serie di pass a categorie di ogni genere e tipo, e ha deciso che per gli animali questa cosa non poteva essere fatta. E qui arriviamo al punto, per gli animali non si può fare, quindi se non partiamo da lì, dalle amministrazioni in generale, è chiaro che poi non si può fare. Anche perché in effetti noi svolgiamo un servizio che tutto sommato dovrebbe svolgere il comune, facciamo un servizio per il quale il comune non ci riconosce nemmeno un euro, vorrei che almeno non ci penalizzasse. Una cosa sulla quale voglio rassicurare gli ascoltatori è che non abbiamo pagato una lira di multe e io non le pagherò mai queste multe, perché queste multe sono ingiuste, a costo di farmi pignorare i mezzi, ma il comune soldi per queste multe ingiuste, per servizi che noi facciamo a favore degli animali e della collettività, non le pagheremo mai. Ecco, questo solo per descrivere le problematiche che poi si incontrano pratiche e che fanno un po' arrabbiare con tutta la fatica, fanno perdere che si molto fa tempo. Sicuramente, oltre che soldi, poi se doveste anche pagare. Ermano Giudici, ti saluto, grazie per essere stato grazie con noi. A voi. Vi ricordo il sito, quello di Milano in particolare, empamilano.org, se no empa.it è quello generale, esatto. E ti ringrazio, e insomma cercheremo di fare qualcosa. Se volete fare un po' di volontariato, fatevi sentire, perché avete sentito, ne hanno bisogno. Il riposo del guerriero. Senti chi parla. La nostra glottologa Francesca Dragotto, ciao, bentornata. Buongiorno, senti chi miagola, non senti chi parla. Dovrebbe essere così, infatti sentiamo un po' chi parla. Perché parliamo di gatti, infatti, e di gatti si può dire molto, a partire dalla parola gatto. Beh sì, parliamo di gatto e dei suoi parenti, naturalmente parenti in senso linguistico. Iniziamo con la solita pillola etimologica, il termine di eredità latina, ma di etimo remoto sconosciuto. L'attestazione di gatto la troviamo ininterrottamente per tutta la storia della nostra lingua. Per quanto riguarda invece il latino, sembra che il termine più antico fosse feles, quello che l'italiano ha mantenuto nell'aggettivo felino. In italiano è attestato anche l'aggettivo gattico, però si usa molto poco, diciamo che quasi ovunque troviamo attestato felino. Quindi le località che si chiamano gattico, che esistono, hanno a che fare con i gatti? Falsi amici. Ah, falsi amici per, okay. Attraverso la ricostruzione etimologica lo si può dimostrare, così come la gattinara, il vino non ha nulla, non a, che nulla fare nulla con... a che fare, ho capito, no, quindi altra, altri termini. Andiamo avanti. Esattamente. Appunto abbiamo gattico come concorrente di felino, benché poco usato. Per quanto riguarda in latino la forma gattus o cattus, perché lo si trova sia con la c che con la g, indicava il gatto domestico. Ora, il fatto che l'etimo sia sconosciuto e che l'introduzione di questa parola coincida con l'introduzione del gatto domestico ci fa pensare che si tratti di un'importazione dall'estero, quindi di un prestito culturale, non soltanto linguistico. Forme della stessa parola si trovano anche nelle lingue germaniche, nelle lingue celtiche, nelle lingue slave, e questo naturalmente ha fatto di volta in volta invocare un'origine ora di tipo celtico, ora di tipo germanico. Diciamo che le ipotesi sono diverse, c'è l'ipotesi sulla provenienza originaria dell'animale e del relativo nome. Sono diverse, c'è chi pensa all'Africa, chi pensa alla Siria per la presenza di un termine analogo nell'armeno antico. Ora, ciò che interessa a noi è che, benché si tratti di un'introduzione abbastanza tarda nella lingua latina, una volta insediatosi il vocabolo non ha mai conosciuto. Non è mai cambiato, quindi? No, non solo non è cambiato, ma non è mai andato in crisi, anzi ha dato vita a una famiglia sempre più numerosa, e sono infatti decine e decine i termini che hanno a che vedere con il gatto o con una delle sue forme. Perché dico una delle sue forme? Perché in italiano usiamo ad esempio gnaulio, è un altro esito onomatopeico. Lo usi solo tu, Che... No, non è vero, no. Ad esempio l'ho trovato in un libro della Mazzantini, quindi non sono soltanto io a usare gnaulio per, come forma alternativa a miagolio, o gattillare per miagolare. Un'altra forma poco nota è quella che è contenuta in ailurofobia e nel suo contrario ailurofilia, per indicare l'odio folle o l'amore folle per il gatto, entrambi dalla parola greca ailuros. Esaurita questa premessa, che più che altro è appunto di sapore etimologico, vorrei invece passare, per andare a chiudere, a una serie di modi di dire o di parole che hanno a che fare col gatto, con una delle sue caratteristiche. Comincio io, ecco, che vai, però sono inerenti al gatto. Io comincerei con gatto bagnato. Eh beh sì, è molto, io la trovo molto carina, gatto bagnato, per indicare una persona sfiduciata o scoraggiata, quindi abbiamo una ripresa di una caratteristica solitamente più trascurata del gatto, perché il gatto si guarda per indicare l'astuzia, per indicare il fatto di stare di sottecchi, di soppiatto, o anche per indicare lo sciupa femmine. Vorrei poi infatti andare a chiudere sulle espressioni che guardano al gatto come a un soggetto amatore, come a un casanova. È interessante anche fare il gattone, una locuzione poco usata che ha vari significati, tra i quali quello di fare il finto tonto. Non so se tu ne vuoi introdurre qualcun altro. Ma io non so, fare il, c'è un detto che la gatta frettolosa fece gattini ciechi, ma fare il gatto cieco ha anche un significato di per sé? Sì, il significato che si trova attestato è quello di non essere riusciti nell'impresa che si era tentata, questo almeno dice la lessicografia. E così come, benché meno usato, il gattino è presente in fare i gattini come sinonimo di rigettare, ma anche in la gatta frettolosa fece gattini ciechi, sì, in effetti l'hai detto tu. E no, volevo dire, i gattucci hanno aperto gli occhi, che è un altro proverbio meno noto, che indica il fatto che anche le persone più sprovvedute con il tempo si svegliano, si avvedono. È curioso che il gatto ha due aspetti, insomma, ha l'aspetto quello di più furbo, più veloce, ammaliatore, diciamo così, soprattutto quando si tratta di conquistare, per esempio, sì. No? Quindi sì. Quello è un senso molto chiaro. Però ha anche il senso opposto, quello di una persona sfiduciata, scoraggiata, abbiamo visto nel gatto bagnato, sì. Oppure appunto gattucci hanno aperto gli occhi, quindi gattucci che sono piccoli e indifesi, quindi li si vedono da tutti e due i punti di vista. Sì, c'è una polarizzazione però appunto tra il gatto piccolo e il gatto grande, perché una volta diventato adulto al gatto si guarda per quelle che sono le caratteristiche che esteriormente appaiono più palesi, appunto il gatto che va in amore, che dà il via alla serie linguistica legata al corteggiamento, la stessa parola gatto, ma anche la parola gattone, sono sinonimi di sciupa femmine, corteggiatori accaniti, e poi appunto c'è anche il femminile. Volevo dire, la gatta. Ah, sì, certo. Ecco, sì. Sì. Un'altra parola collegata e meno nota è gattigliare, sì. Che credo abbia proprio come origine quella della zuffa tra gatti finalizzata alla conquista di una femmina. Quindi gattigliare è il litigio aspro, il litigio rumoroso. Ecco. Bene, quindi andrò in gattesco e quindi ci sentiamo la domenica prossima. Lascio gli ascoltatori capire il significato di questa frase, andare in gattesco. Sì, scrivetelo sulla pagina Facebook o su Tuttopoli, andare in gattesco. Se lo conoscete, voi per cosa lo utilizzate? Ciao, grazie Francesca. Grazie a voi, buona domenica. Giochi e videogiochi. Sono gli Oscar, che sono famosissimi, ci sono gli MTV Awards dedicati al mondo della musica, e ci sono anche c'è, perché è singolare, il Drago d'Oro. Talita Malagò, ciao, buona domenica. Buongiorno Stefano e grazie per l'invito. Talita è segretaria generale di AESVI, l'associazione editori videogiochi italiani, perché parte quest'anno il primo premio italiano del videogioco, come avviene in tanti altri paesi. Talita. Assolutamente sì, abbiamo deciso di dare vita anche noi qui in Italia a questo premio perché, diciamocelo, era ora. I videogiochi si sono trasformati nel giro di qualche decennio da prerogativa dei nerd a un fenomeno di tendenza, da realtà virtuale a un luogo sociale e di interazione tra le persone, soprattutto in una fucina di nuovi linguaggi e tendenze. Ecco perché abbiamo deciso di riconoscere il suo ruolo da vero e proprio protagonista della cultura contemporanea con questo premio, che mira a dare appunto un riconoscimento all'eccellenza nel mondo dei videogiochi. Anche perché c'è tantissimo lavoro, lo continuiamo a ripetere nel mio programma, soprattutto perché ormai le produzioni si equivalgono, molte produzioni, a quelle di un vero e proprio lungometraggio, anche un colossal, anche come costi e come risorse che poi sono utilizzate, per cui dobbiamo capire che la forza di un videogioco è identica a quella di un film, quindi per il film si fa molto, gli Oscar esistono da tanto tempo e sono anche molto seguiti, dovrebbe essere così anche per questa realtà, no Talita? Certo, le produzioni, diciamo, se vogliamo fare un paragone con il cinema, sì, visto che hai appena citato questa industria, le nostre produzioni hollywoodiane, chiamiamole così, saranno al centro di quella che è la statuetta più ambita, ovvero il videogioco dell'anno, che vede contendersi il titolo 12 videogiochi d'eccezione tra queste grandi produzioni di cui abbiamo detto. Oltre al videogioco dell'anno però saranno assegnati altri importanti riconoscimenti, sia i migliori videogiochi per singola piattaforma, sia i migliori videogiochi per categorie artistiche, quindi il miglior personaggio, il miglior protagonista, il miglior personaggio non protagonista, la miglior colonna sonora, la miglior sceneggiatura, ma anche i videogiochi per genere, quindi no? C'è una giuria che ha votato il miglior videogioco sportivo piuttosto che il miglior videogioco d'azione o d'avventura. Questo per dare conto a 360 gradi di quella che è ormai la varietà e la ricchezza della produzione di videogiochi. Ecco, c'è una giuria critica, una giuria tecnica e questa premiazione si svolgerà il 16 di aprile, dico bene? Esatto, martedì. A Milano, al Limelight, tra l'altro dalle 21.30 in poi l'accesso sarà invece libero a chi vorrà andare dopo non so cosa succede dalle 21.30 in poi, la serata ormai la premiazione ci sarà già stata o arriverà proprio quell'ora? Sì, allora la premiazione si svolgerà entro le ore 21, però alle 21.30 abbiamo pensato di aprire le porte del locale al grande pubblico per un after show a cui potranno prendere parte tutti gli appassionati di videogiochi che abbiano voglia di unirsi a noi per festeggiare e celebrare la loro passione, e ad accoglierli troveranno numerose demo station per giocare con i videogiochi più premiati di questa prima edizione del Drago d'Oro, oltre che delle altre fantastiche sorprese che non posso, come dire, anticipare oggi. Certo. vi aspettiamo 16. Alle 21.30 martedì sera al Limelight. L'ultima cosa, c'è un sito dove poter avere tutte le informazioni, Talita? Assolutamente sì, il sito è www.premiodragodoro.it. Grazie, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica anche a voi. Ciao. Il riposo del guerriero. 11.34 è il momento del nostro wine bar, ovviamente col gastronauta. Il gastronauta. Che rapporto hai con i gatti tu, Davide? Buongiorno. Ma ne avevo uno a casa ancora quando vivevo con i miei genitori, che avevo soprannominato Prati, perché io milanista avevo chiamato quel gatto Prati. Quindi mi ricordo solamente questo particolare. Niente a che fare con le margherite, insomma. Niente a che fare con le margherite. Guarda, tu stai parlando di margherite, in questo momento sono in un prato. Sì, immaginavo. Dove ci sono le margherite, quindi credo che più primavera di così, forse entriamo direttamente in estate. Finalmente, nel senso che ci voleva, era un po' stufi il tempo, almeno io particolarmente lo ero molto. Tutti forse. Di cosa ci parli, Davide? Dove sei? Ma guarda, ho sentito prima che si parlava di pizza, ho sentito uno spot che si parlava di pizza. Sì. Allora ti voglio dire che in questo momento c'è un boom della pizza veramente, veramente incredibile, e diciamo che gli italiani si dividono in vari partiti. Io ho lanciato sul sito Gastronauta un sondaggio: qual è per voi la miglior pizzeria italiana? E devo dire che succede la fine del mondo, perché ci sono non so quanta gente che vota, e la cosa più sorprendente è questa, che emergono tutte pizzerie fino a ieri, insomma, che sono tutte, nessuna napoletana, e questo è incredibile, nonostante sia noto, e anch'io lo dico sempre, cioè Napoli e la Campania sono la patria delle pizze. Però ormai ognuno ha la propria pizzeria vicino all'angolo, oppure la più fedele, e tutti sono convinti che quella, ecco, sia, bravo, io mondo. Io infatti io sulla pizza, scusa, io vorrei dire la sì, poi c'è il posto dove la pizza non è buona e questo vabbè è decretato, è vero, però la pizza è una cosa un po' personale, no? Perché è legata al posto dove vai, perché sei abituato a magari a mangiarlo da tanto tempo, per cui sei abituato a quel gusto e un altro gusto non ti sembra non buona, invece magari è buona lo stesso, anzi magari di più, però non ti piace perché non sei abituato, cioè credo che sia molto legata al gusto, o mi sbaglio? Poi tu dici, ma è molto legata secondo me anche così a certe idee che ci siamo formati, sì, esatto, chi la vuole altra col cornicione alto, sì, invece dice no, è meglio pire croccante. Io credo che comunque il metro di giudizio della pizza sia solamente è la digestione, tu dici, esatto, no? Ecco, perfettamente, sì. L'hai capito, perché secondo me buona parte delle pizzerie italiane hanno, c'è questo grosso problema, la digeribilità, che è sempre molto molto difficile, però devo dire che negli ultimi anni la qualità è cresciuta perché sono venuti fuori anche giovani che hanno cominciato a studiare lievitazioni, hanno cominciato a studiare farine, hanno cominciato, insomma, si sono veramente evoluti anche nella pizzeria, diciamo che c'è stata una crescita di conoscenza e di formazione davvero molto importante. Però scusi, è sorprendente che appunto, cioè, tutti votano una propria pizza, magari o quella del mare quando si va al mare, quindi sì, la pizza è una cosa che si mangia molto, oppure quella della propria città o quella del proprio paese anche, perché ormai, cioè, le pizzerie sono davvero ovunque, e devo dire che appunto gli ingredienti però sono sempre quelli, farina, acqua, pomodoro, mozzarella, insomma. Cioè, la pizza classica secondo me è quella. Certo, poi dipende molto dalla qualità, per esempio, della mozzarella. Ma secondo me più che altro dipende, guarda, non solo la mozzarella, però la farina, la lievitazione, la lunghezza della lievitazione sono determinanti. Ora c'è anche una grande querelle su forno a legna o forno elettrico, perché molti bravissimi pizzaioli sostengono che anche con un forno elettrico si possa fare una grande pizza, ma anche qui si sono divisi, diciamo, in due grandi partiti. Devo dire che è affascinante, veramente affascinante. Va bene, vedremo se riuscirai a trovare una quadra e capire, almeno decretare, non so, le 100 pizzerie più votate dagli italiani, no? Ma io invito tutti ad andare a votare su gastronauta.it, perché ognuno appunto è alla luce del sole, non ci sono trucchi, uno vota, clicca. Ecco, basta che poi gli hacker o hacker, che dir si voglia, secondo come si vuole leggere, pronunciare, non vengano così a cambiare un po' le sorti del sondaggio. Vedremo. Ma tu pensi addirittura per una cosa così semplice, così utile, che ci sia anche questo? Beh, insomma, sarebbe veramente il massimo. Sì. Vediamo, poi magari fra 20 giorni, quando ci risentiremo, ti darò il risultato. Va bene, volentieri, grazie. Bene. Ciao Davide, ciao, buona presto. Domenica. Ciao, grazie ancora. Modigliani in 24 minuti. Per voi il catalogo della mostra e i biglietti d'ingresso Modigliani su Tin e gli artisti maledetti a Milano, Palazzo Reale, e se riuscirete ad associare le canzoni che vi faccio ascoltare al titolo di un'opera di Modigliani o di un altro autore, poi vi dirò di volta in volta. In questo momento dovete cercare di trovare il titolo di un'opera di Modigliani legato a una canzone che tra poco vi faccio sentire, prima il numero però, 800240024, ecco la canzone. Angeli questa è Laura Pausini con Angeli nel blu, è la canzone che dovrebbe indicarvi la strada per la risposta che Maria dalla provincia di Lucca ci darà prontamente. Ciao Maria. Ciao. Buongiorno, buona domenica. Hai dei gatti tu? Com'è il tuo no. No, qual è il tuo rapporto con i gatti? Insomma, abbiamo capito. Mi che, sì, ti abbiamo già capito che neanche ti piacciono tanto, perché questo sì, mi piace, per dire, ma anche no. Allora, Maria, abbiamo una parola che determina il titolo di quest'opera di Modigliani. Tu sai dirmi qual è questa parola? Angeli? Non è angeli. Mi dispiace, Maria, non è Angeli, ti devo salutare. Ciao, ciao Maria, ciao. Non è Angeli. Lucia da Foggia, buongiorno Lucia. Buongiorno. Eccoci qua, tu invece i tuoi gatti come stanno? Non ho mai avuto neanche gatti, tu, non penso ho avuto dei cani. Vabbè, insomma, oggi però eravamo puntare di più sui gatti. Ma sì, perché sai, i cani un po' scontati sempre. Invece i gatti non si parla mai. E invece dovevamo farlo oggi. Lucia, allora dovresti dirmi l'opera, il titolo di quest'opera di Amedeo Modigliani, legato in qualche modo a questa canzone. Una parola sola, sola e semplice. Vai. Blu. Eh sì, non era Angeli, mi dispiace, Maria di prima, era semplicemente Blu. In realtà il titolo dell'opera è Cariatidi, però ha un sottotitolo che è Blu, perché è disegnato tutto in blu, con un tratto di questo colore. Per cui ecco perché, anche se il titolo originale sarebbe Cariatide. Però per noi va bene questo. Grazie Lucia, buona domenica. Grazie. Ciao, grazie. Beatrice da Milano. Sì, ciao. Ciao Beatrice, per te un'altra domanda, ma molto semplice, che ti farò tra pochissimo, ma credimi, la risposta ci arriverai prontamente. Devi ascoltare però con attenzione questa famosissima canzone di Rino Gaetano. Canzone molto famosa, forse la più famosa, di Rino Gaetano, che nasconde la risposta alla domanda alla quale fra poco Beatrice risponderà. Bazak.it, il sito di shopping online con la sicurezza di carta sì. Certo che sì, Bazak.it. Vi presenta Strade in diretta. 2 chilometri di coda sulla 6 Torino-Savona per lavori tra Altare e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Altre code per traffico intenso sulla 12 Genova-Livorno in uscita allo svincolo di Rapallo nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla diramazione Lucca-Viareggio, code di 2 chilometri per un cantiere tra l'innesto con la 11 Firenze-Mare e Massarosa in direzione di Viareggio. Ripercussioni anche sulla 11 dove si rallenta già da Alto Pascio. Sulla tangenziale di Mestre, code sul raccordo dell'aeroporto Marco Polo tra Favoro Dese e Venezia Aeroporto in direzione Venezia per traffico intenso. Altrove traffico vivace ma scorrevole, prudenza alla guida e buon viaggio. Modigliani in 24 minuti. Beatrice, eccoci qua finalmente. Allora, devi rispondere a questa domanda. C'è una persona, anzi due in particolare, legate a Modigliani, in un rapporto molto stretto. Volevo sapere il nome di queste persone o di questa persona. Il nome, quale potrebbe essere? Ti ho già detto, cioè, di più non posso dire, però... Jean, certo, Jean, sì, avevo paura... Ero terrorizzato, Beatrice, perché credevo che tu mi rispondessi Gianna e dico no, però siamo in Francia e quindi dobbiamo francesizzare il nome, però è proprio quello. Brava, giusto, moglie, figlia anche, e due persone diverse ovviamente, ma la figlia di Modigliani si chiama così. E grazie Beatrice, per te i biglietti d'ingresso della mostra e anche il catalogo. Grazie, buona domenica. Maurizio della provincia di Venezia. Buongiorno. Ciao Maurizio, anche per te una facile domanda. Speriamo. Ma sì, guarda, veramente ormai hai capito che vi aiuto in tutti i modi, ormai rispondete senza difficoltà. Ascolta bene questa canzone di un po' di tempo fa, non so quanti anni hai tu? 55. Vabbè, allora te la ricordi molto bene, eccola qua. Godendo questo arrangiamento anni 60 di questa canzone, te la ricordi, no Maurizio? Ti ricordi come si intitola? Beh, facile. Il paradiso, ecco. Senti, Modigliani conosceva a memoria tante cose, fra le quali le opere di un autore. Vorrei sapere qual è il nome di questo autore. Beh, Dante Alighieri. Te l'ho detto che era facile, mi credevi, più facile di così. E infatti conoscevo a memoria Dante. Bravo Maurizio, per te il catalogo della mostra e i biglietti d'ingresso. Buona domenica. Bene. Ciao, grazie, ciao. Tutti stiamo facendo vincere oggi, a parte Maria all'inizio che ha detto Angeli a posto di dire blu, mi dispiace. Massimo da Padova. Pronto. Ciao Massimo, per te c'è un'altra domanda, ma abbiamo capito che le cose sono facili, giusto? Sì. Okay. Anche per te lo sarà sicuramente. Ascolta questa canzone di Fabio Concato. Invece tu hai sempre voglia di cantare. Ehi, Rosalina, Rosalina, la mia bella farfallina che pedala e canta, canta finché muore il sole. Quando è sera, sera, la sento masticare. Quando è sera, sera, t'ammazzi con i bigni. Olè. Allora, Massimo da Padova. Sì. Questa è la canzone di Fabio Concato, tu hai riconosciuto sicuramente. Insomma, sì, Rosalina. Si intitola Rosalina, bravo. Allora, c'è un'ex modella, proprietaria della latteria dove Modigliani andava a mangiare. Volevo sapere il nome di questa modella, attento. Non dirmi Rosalina. No, beh, chiaro. Ma potrebbe essere quale nome? Un attimo solo, vedo se mi dà una mano internet. Mia moglie, più che altro, perché a me non viene in mente. Insomma, Rosalina, siamo a Montparnasse, potrebbe essere quindi ma non fa niente. Rosetta. Non è Rosette. Mi dispiace. Era più facile, decisamente più facile, ma torna la settimana prossima la domanda. Grazie Massimo, ciao, grazie a tutti per aver seguito il riposo del guerriero. Appunto, ci riposiamo, proprio così, il riposo del guerriero, perché durante tutta una settimana di problemi che ci riguardano, la domenica mattina si ha voglia di distrarsi un po'. Per questo si chiama riposo del guerriero. Rispondo a un messaggio che non leggo neanche perché piuttosto è pieno di parolacce, perché non ci si capacita, perché si parli d'altro e non di problemi in questa trasmissione, ma l'ho appena spiegato. Grazie a tutti, grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Benedetta Acri, di Roberto Scartritti in regia, e a voi ci sentiamo domenica prossima alle 10. Buona settimana da Stefano Gallarini.